Capitolo 4 Aprile Mole di tacchino con mandorle e sesamo. Ingredienti: un quarto di peperone mulatto scuro, tre peperoncini pasilla, tre peperoni, un pugno di mandorle, un pugno di semi di sesamo, brodo di tacchino, alcune gallette, arachidi, mezza cipolla, vino, due tavolette di cioccolato, anice, strutto, chiodi di garofano, cannella, pepe, zucchero, semi di peperoncino e 5 spicchi d'aglio. Preparazione. 2 giorni dopo che è stato ucciso si pulisce il tacchino, lo si sala e lo si mette a lessare. La carne dei tacchini è saporita, ma diventa ancora migliore se questi volatili sono stati allevati con una certa cura. Significa che vanno tenuti in recinti puliti, dove non deve mai mancare acqua e grano. 15 giorni prima di ammazzarli, bisogna incominciare a nutrirli con piccole noci. Si inizia il primo giorno con una, il successivo con due e così via, aumentando la razione fino alla vigilia dell'uccisione, in aggiunta al mais che mangiano spontaneamente in quel periodo. Tita ebbe particolare cura nel nutrire adeguatamente i tacchini, poiché voleva fare bella figura in occasione di una festa così importante come quella che si sarebbe celebrata nella fattoria, il battesimo di suo nipote, il primogenito di Pedro e Rosaura. L'avvenimento meritava un gran pranzo con il mole. Per l'occasione era stato fatto fare uno speciale servizio di piatti di terracotta con sopra dipinto il nome di Roberto. Così si chiamava il grazioso neonato, il quale riceveva attenzioni e regali a non finire dai familiari e dagli amici. In special modo da Tita, che nonostante quello che ci si sarebbe aspettato, provava un immenso affetto per il bambino. Quasi avesse dimenticato che era il frutto del matrimonio della sorella con Pedro, l'amore della sua vita. Con entusiasmo si era messa a preparare con un giorno di anticipo il mole per il battesimo. Pedro, che era nella sala accanto e la sentiva cucinare, provò nuove sensazioni. Il baccano delle pentole, l'odore delle mandorle abbrustolite sul comal, la melodiosa voce di Tita che cantava cucinando, avevano risvegliato il suo istinto sessuale. E così, come la vicinanza con l'essere amato, il suo odore, le carezze dei giochi d'amore preannunciano all'amante il momento dell'intima unione, così questi suoni e questi odori, soprattutto quello del sesamo tostato, preannunciavano a Pedro il momento di un profondo piacere culinario. Le mandorle e il sesamo si tostano nel comal. In un tegame a parte si fanno rosolare con un po' di strutto i peperoncini ancios privati dei semi, ma poco, altrimenti diventano amari. Dopodiché si macinano col metate, la pietra quadrangolare usata per macinare mais, cacao e altri semi, le mandorle e il sesamo. Tita in ginocchio, china sul metate, si muoveva ritmicamente mentre macinava le mandorle e il sesamo. Sotto la camicetta i seni le oscillavano liberi perché lei non portava mai il reggiseno. Gocce di sudore le scendevano dal collo tra le mammelle formose e sode. Pedro, non potendo resistere ai profumi che lo raggiungevano, si diresse in cucina e rimase come pietrificato sulla porta di fronte alla posizione sensuale di Tita. Tita alzò il capo, continuando a muoversi, e i suoi occhi incontrarono quelli di Pedro. Immediatamente i loro sguardi eccitati si fusero, tanto che chi li avesse visti avrebbe notato un unico sguardo, un unico movimento ritmico e sensuale, un unico respiro agitato. E uno stesso desiderio. Rimasero immobili nell'estasi d'amore fino a quando Pedro non abbassò lo sguardo e lo fissò sul seno di Tita. Tita smise di macinare, si raddrizzò ed erse con orgoglio il petto perché Pedro potesse osservarlo completamente. L'esame di cui fu oggetto cambiò per sempre il loro rapporto. Dopo quel penetrante sguardo che aveva trapassato i vestiti, tutto sarebbe stato per sempre diverso. Tita capì a sue spese perché il contatto con il fuoco altera gli elementi, perché un pezzo di pasta diventa una tortiglia, perché un petto che non è passato attraverso il fuoco dell'amore è un petto inerte, una palla di pasta senza alcuna utilità. In pochi istanti, Pedro aveva trasformato, senza toccarlo, il seno di Tita da casto in voluttuoso. Se non fosse stato per l'arrivo di Cencia, che era andata al mercato a comprare i peperoni, chissà che cosa sarebbe accaduto tra Pedro e Tita. Forse Pedro avrebbe finito per impastare senza posa il seno che Tita gli offriva, Ma purtroppo non fu così. Pedro, con la scusa di essere venuto in cucina a prendere un bicchiere di limonata e chia, lo beve velocemente e se ne uscì. E Tita, con le mani tremanti, si sforzò di continuare a preparare il mole come se nulla fosse accaduto. Una volta macinate, le mandorle e il sesamo si buttano nel brodo dove è stato bollito il tacchino. E si aggiunge il sale necessario. In un mortaio si pestano i chiodi di garofano, la cannella, l'anice, il pepe e infine le gallette, fritte in precedenza nello strutto con la cipolla tritata e l'aglio. Si aggiunge il vino e si mescola. Mentre macinava le spezie, Cencia tentava invano di catturare l'attenzione di Tita, ma per quanto esagerasse e reso conto degli incidenti cui aveva assistito in piazza e le raccontasse con profusione di dettagli la violenza delle battaglie che avevano avuto luogo in paese, riusciva a interessare Tita soltanto per brevi momenti. Quel giorno Tita non aveva testa che per l'emozione appena provata. Conosceva perfettamente il motivo per cui Cencia le raccontava quelle cose. Siccome non era più una bambina che si impauriva con le storie della Llorona, la strega che si mangiava i bambini, dell'uomo nero e di altri orrori, ora Cencia cercava di spaventarla con storie di impiccati, di fucilati, di squartati, di sgozzati e perfino di martiri a cui veniva strappato il cuore in pieno campo di battaglia. In un altro momento a Tita sarebbe piaciuto cadere nell'incantesimo dei bei racconti di Cencia e finire per credere alle sue bugie, anche a quella secondo la quale a Panciovilla portavano i cuori sanguinanti dei suoi nemici perché se li mangiasse. Ma non era il momento. L'occhiata di Pedro le aveva fatto riacquistare fiducia nell'amore che le professava. Aveva trascorso mesi avvelenata dall'idea che Pedro le avesse mentito il giorno delle nozze, che le avesse dichiarato il suo amore solo per non farla soffrire, oppure che con il passare del tempo egli avesse finito per innamorarsi di Rosaura. Questa insicurezza era nata quando Pedro aveva inspiegabilmente smesso di farle i complimenti per i suoi piatti. Tita si scervellava per cucinare sempre meglio. La notte, disperata, ovviamente dopo aver lavorato alla sua coperta, inventava una nuova ricetta con l'intenzione di recuperare la relazione che si era stabilita tra lei e Pedro attraverso il cibo. In quel periodo di sofferenza erano nate le sue migliori ricette. E come un poeta gioca con le parole, così lei giocava a suo piacimento con gli ingredienti e con le dosi, ottenendo risultati sorprendenti. Ma niente, tutti i suoi sforzi erano vani. Non riusciva a strappare dalle labbra di Pedro una sola parola di approvazione. Ciò che non sapeva era che mamma Elena aveva chiesto a Pedro di astenersi dall'elogiare i suoi piatti, dato che Rosaura soffriva di insicurezza, poiché con la sua gravidanza era diventata grassa e sformata. E quindi mal sopportava i complimenti che gli rivolgeva Tita per la sua abilità culinaria. Come si sentiva sola Tita in quell'epoca? Aveva tanta nostalgia di Naccia, odiava tutti, anche Pedro. Era convinta che non sarebbe mai più riuscita ad amare un uomo finché avesse avuto vita, ma tutte queste cose sfumarono quando accolse tra le braccia il figlio di Rosaura. Accadde una fredda mattina di marzo, mentre era nel pollaio a prendere le uova appena deposte da cuocere per la colazione. Quelle ancora calde se le infilava sotto la camicetta, tenendole contro il petto. Così mitigava il suo freddo cronico che ultimamente si era acuito. Come d'abitudine si era alzata prima di tutti gli altri. Ma quel giorno si era svegliata con un'ora di anticipo per preparare una valigia con gli indumenti di Gertrudis. Voleva approfittare del fatto che Nicolas andava a comprare del bestiame per chiedergli il favore di farli pervenire a sua sorella. Naturalmente questo veniva di nascosto dalla madre. Tita aveva deciso di mandarle la valigia poiché non poteva togliersi dalla testa l'idea che Gertrudis fosse ancora nuda. Tita però si rifiutava di ammettere che questo poteva dipendere dal lavoro di sua sorella nel bordello della frontiera e si ostinava a pensare che Gertrudis non avesse niente da mettersi addosso. Diede in fretta a Nicolas la valigia con gli indumenti e una busta con le indicazioni della spelonca, dove con ogni probabilità avrebbe trovato Gertrudis. Poi ritornò alle sue faccende. All'improvviso sentì che Pedro preparava il calesse. Fu stupita che lo facesse così di buon'ora, ma osservando alla luce del sole si rese conto che era molto tardi. E che per impacchettare una parte del passato di Gertrudis Insieme ai suoi indumenti aveva impiegato più tempo del previsto. Non le era stato facile mettere nella valigia il giorno in cui avevano fatto tutte e tre insieme la prima comunione. La candela, il libro e la fotografia davanti alla chiesa erano entrati molto bene, ma non altrettanto il sapore dei tamales, i fagottini di farina gialla avvolti in foglie di banana o di mais, e della tole che Nacha aveva preparato per loro e che avevano mangiato in compagnia di amici e familiari. Riuscì a far entrare nella valigia i semi colorati di ciabaccano, ma non le risate di quando ci giocavano nel cortile della scuola, e nemmeno la maestra Jovita, l'altalena, l'odore della sua camera e quello della cioccolata appena sbattuta. Per fortuna non ci fu spazio per le botte e le sgridate di mamma Elena, perché Tita chiuse con forza la valigia prima che riuscissero a infilarvisi dentro. Uscì in cortile proprio nel momento in cui Pedro la cercava, chiamandola disperatamente senza trovarla. Doveva andare a Eagle Pass a prendere il dottor Brown, che era il medico di famiglia, perché Rosaura aveva incominciato ad avere le doglie. Pedro le chiese di badare a lei in sua assenza. Tita era l'unica che potesse farlo. In casa non era rimasto nessuno. Mamma Elena e Cencia erano già andate al mercato per rifornire la dispensa, poiché aspettavano da un momento all'altro il lieto evento e non volevano che in casa mancasse ciò che in questi casi è indispensabile. Non avevano potuto farlo prima a causa dell'arrivo dei federali e della loro pericolosa permanenza in paese. Non sapevano, uscendo, che il bambino sarebbe arrivato prima del previsto. Infatti, non appena se ne furono andate, Rosaura incominciò il travaglio del parto. A Tita non rimase quindi altra soluzione che stare vicino alla sorella per assisterla, con la speranza che fosse per poco tempo. Non aveva nessun interesse a conoscere il bambino o bambina che fosse, ma nessuno si sarebbe aspettato che Pedro venisse ingiustamente catturato dai federali e messo nell'impossibilità di raggiungere il medico. Che mamma Elena e Cencia non potessero tornare a causa di una sparatoria scoppiata in paese che le aveva costrette a rifugiarsi in casa dei Lobo, e che perciò l'unica presente alla nascita di suo nipote sarebbe stata lei. Proprio lei. Durante le ore trascorse vicino alla sorella, imparò più cose che in tutti gli anni di scuola. Detestò come mai i maestri e la madre per non averle mai detto ciò che si deve fare durante il parto. A che cosa le serviva in quel momento sapere i nomi dei pianeti e il manuale del carregno dalla A alla Z? Se la sorella stava per morire, lei non poteva aiutarla. Rosaura era ingrassata di 30 kg durante la gravidanza. Di conseguenza, il parto come primipara si presentava più difficile del normale. A parte l'eccessiva grassezza della sorella, Tita notò che il corpo di Rosaura si stava gonfiando in modo eccessivo. Dapprima i piedi, poi la faccia, le mani. Tita le asciugava il sudore sulla fronte e cercava di farle coraggio, ma Rosaura non reagiva. Tita aveva visto nascere alcuni animali, ma quell'esperienza, della quale era stata solo una spettatrice, in quel momento non le era di nessuna utilità. Gli animali sapevano bene ciò che dovevano fare, invece lei non sapeva niente di niente. Aveva preparato lenzuolo, acqua calda, un paio di forbici sterilizzate, aveva ben chiaro di dover tagliare il cordone ombelicale, ma non sapeva né come, né quando, né a che altezza. Sapeva che era necessario avere tutta una serie di accorgimenti quando il neonato fosse venuto al mondo, ma non sapeva quali. L'unica cosa certa era che doveva nascere, ma non sapeva quando. Tita guardava spesso tra le gambe della sorella, ma niente, solo un tunnel buio, silenzioso, profondo. Tita, inginocchiata davanti a Rosaura, chiese disperata a Nacha di illuminarla sul da farsi. Visto che di solito le dava ricette di cucina, era possibile che l'aiutasse anche in questa difficile circostanza. Qualcuno dell'altro mondo doveva pur assistere Rosaura, visto che quelli di questo mondo non lo potevano fare. Non seppe per quanto tempo pregò in ginocchio, ma quando schiuse le palpebre, l'oscuro tunnel si trasformò d'improvviso in un fiume rosso, in un vulcano impetuoso, in un foglio di carta strappato. La carne della sorella si apriva per far strada alla vita. Tita non avrebbe mai dimenticato quel suono, né l'immagine della testa di suo nipote che usciva trionfante dalla lotta per la vita. Non era una bella testa, perché a causa della pressione alla quale le sue ossa erano state sottoposte per tante ore, aveva piuttosto la forma di una pera. Ciò nonostante, a Tita sembrò la più bella che che avesse mai visto. Il pianto del neonato invase tutti gli spazi vuoti del cuore di Tita. Si accorse allora di amare di nuovo la vita, quel bambino, Pedro e perfino sua sorella odiata per tanto tempo. Prese il bambino fra le braccia e lo portò a Rosaura e piansero insieme, abbracciate a lui. Dopo, seguendo le istruzioni che Nacia le suggeriva all'orecchio, seppe perfettamente tutto quello che doveva fare. Tagliare il cordone ombelicale nel punto e nel momento adatto, pulire il corpo del neonato con olio di mandorle dolci, fasciargli l'ombelico e vestirlo. Senza alcun problema, gli mise prima la camiciola e la maglietta, poi la fascia ombelicale, poi il pannolino di garza, poi quello di occhio d'uccello, poi la flanella per coprirgli le gambe, poi il coprifasce, poi le calze, le babbucce, infine, utilizzando una coperta di felpa, gli incrociò le mani sul petto perché non si graffiasse la faccia. Quando alla sera arrivarono mamma Elena e Cencia insieme ai Lobo, non poterono far altro che ammirare il lavoro da professionista compiuto da Tita. Avvolto come un taco, il bambino dormiva beatamente. Pedro arrivò con il dottor Brown il giorno successivo, dopo essere stato messo in libertà, e il suo ritorno tranquillizzò tutti. Temevano per la sua vita. Ora rimaneva soltanto la preoccupazione per la salute di Rosaura, che era ancora debole e gonfia. Il dottor Brown la visitò accuratamente. Fu allora che si venne a sapere quanto fosse stato rischioso il parto. Secondo il medico, Rosaura aveva avuto un attacco di eclampsia che avrebbe potuto esserle fatale. Si stupì del fatto che Tita l'avesse assistita con tanta serenità e determinazione in condizioni così poco favorevoli, ma che cosa aveva attirato di più la sua attenzione? Il fatto che Tita, pur senza esperienza, avesse fatto tutto da sola. Oppure l'improvvisa scoperta che Tita, la bambina dentona che ricordava, si era trasformata in una bellissima donna senza che lui se ne fosse mai accorto. Dalla morte della moglie, avvenuta 5 anni prima, non si era più sentito attratto da nessuna donna. Il dolore di aver perso la sua compagna poco dopo le nozze l'aveva reso insensibile all'amore per tutti quegli anni. Che strana sensazione provava guardando Tita. Sentiva un formicolio in tutto il corpo che risvegliava e riattivava i suoi sensi addormentati. La osservava come se la vedesse per la prima volta. Com'erano belli i suoi denti, ora che avevano assunto la giusta proporzione all'interno della perfetta armonia del volto, dai lineamenti sottili e delicati. La voce di mamma Elena interruppe i suoi pensieri. Dottore, sarebbe troppo disturbo per lei venire 2 volte al giorno finché mia figlia non sarà fuori pericolo? No, di certo, è mio dovere e poi è un piacere frequentare una casa tanto accogliente. Per fortuna, mamma Elena era molto preoccupata della salute di Rosaura, non aveva notato il lampo di ammirazione negli occhi di John mentre osservava Tita, perché se l'avesse notato non gli avrebbe aperto con tanta fiducia la porta di casa. Per ora il dottore non era un problema per mamma Elena. L'unica cosa che la preoccupava era che Rosaura non aveva latte. In paese, per fortuna, trovarono una balia disposta ad allattare il bambino. Era una parente di Nacia che aveva appena avuto l'ottavo figlio e accettò volentieri di nutrire il nipote di mamma Elena. Per un mese lo fece a meraviglia, finché una mattina, mentre andava in paese a trovare la sua famiglia, venne raggiunta da una pallottola vagante, frutto di una sparatoria tra ribelli federali che la uccise sul colpo. Un suo parente giunse nella fattoria a dare la notizia proprio quando Tita e Cencia stavano mescolando in un pentolone di terracotta tutti gli ingredienti del mole. Questa è l'ultima fase della preparazione, che si compie quando tutti gli ingredienti sono stati macinati, così come è stato indicato. Si mescolano in una pentola, si aggiungono i pezzi di tacchino, le tavolette di cioccolato e zucchero quanto basta. E appena il composto comincia ad addensare, lo si ritira dal fuoco. Tita finì di preparare il mole da sola perché Cencia, saputa la notizia, si precipitò in paese a cercare un'altra balia per il neonato. Tornò a notte inoltrata, ma senza averla trovata. Il bambino piangeva esasperato. Cercarono di fargli succhiare del latte di mucca, ma lo rifiutò. Tita tentò allora con del tè, come Naccia aveva fatto con lei, ma fu inutile. Il bambino rifiutò anche quello. Ebbe poi l'idea di mettersi lo scialle che Lupita, la balia, aveva dimenticato, pensando che il bambino si sarebbe calmato sentendo l'odore familiare di cui era impregnato. Ma il bambino piangeva con più forza perché quell'odore era il segnale che stava per ricevere la pappa e non capiva il motivo del ritardo. Cercava disperatamente il latte fra i seni di Tita. Se c'era qualcosa che Tita non poteva sopportare, era che un essere affamato le chiedesse da mangiare e lei non lo potesse accontentare. Le dava una profonda angoscia e così, non riuscendo più a trattenersi, Tita aprì la camicetta e offrì il suo seno al neonato. Sapeva che era completamente asciutto, ma perlomeno gli sarebbe servito da succhiotto e lo avrebbe tenuto occupato mentre lei pensava a cosa fare per calmargli la fame. Il bambino si attaccò al capezzolo con disperazione e succhiò con forza così straordinaria da far uscire il latte. Quando Tita vide che il bambino a poco riacquistava un'espressione più calma e quando lo sentì deglutire, sospettò che stesse accadendo qualcosa di strano. Era possibile che il bambino si stesse nutrendo da lei? Come prova, allontanò il bambino dal suo seno e vide uscire uno zampillo di latte. Tita non riusciva a capire. Non era possibile che una donna nubile avesse il latte. Si trattava di un fatto soprannaturale che di quei tempi non si poteva spiegare. Appena il bambino sentì che lo separavano dal suo alimento, riprese a piangere. Tita gli ridiede subito il seno e il bambino succhiò finché fu sazio e poi si addormentò beatamente. Era così assorta nella contemplazione del neonato da non sentire che Pedro entrava in cucina. Tita, in quel momento, era proprio come Cerere, la dea dell'alimentazione. Pedro non mostrò stupore, né ebbe bisogno di spiegazioni. Estasiato e sorridente si avvicinò a loro due e chinandosi diede un bacio a Tita sulla fronte. Tita staccò dal seno il bambino, ormai soddisfatto. Allora Pedro contemplò veramente ciò che i suoi occhi già avevano visto soltanto attraverso i vestiti, i seni di Tita. Tita tentò di coprirsi con la camicetta. Pedro l'aiutò in silenzio con molta tenerezza. Facendolo, una serie di sentimenti ritrovati si impossessarono di loro. Amore, desiderio, tenerezza, lussuria, vergogna, timore di venir scoperti. Il rumore dei passi di mamma Elena sul pavimento di legno li avvertì del pericolo. Tita fece in tempo a riabbottonarsi la camicetta e Pedro a scostarsi da lei prima che mamma Elena entrasse in cucina. In tal modo, quando aprì la porta, non notò in loro alcun atteggiamento che andasse contro le norme sociali. Pedro e Tita mostravano una gran serenità. Tuttavia percepì qualcosa nell'ambiente e si concentrò per cercare di scoprire quale fosse la causa della sua inquietudine. Tita, che succede al piccolino? Sei riuscita a farlo mangiare? Sì, mammina, ha bevuto il suo tè e si è addormentato. Ah, Dio sia lodato. Allora, Pedro, che aspetti a portare il bambino a tua moglie? I bambini non devono stare lontani dalla mamma. Pedro uscì con il neonato in braccio. Mamma Elena non smetteva di osservare attentamente Tita. Non le piaceva per niente il velato turbamento che c'era nei suoi occhi. È pronto il champurrado per tua sorella? Una bevanda a base di cacao e atole. Sì, mammina. Dammelo, glielo porto io. Deve berne giorno e notte perché le venga il latte. Ma per quanto champurrado bevesse, il latte non arrivò mai. Tita invece da quel giorno ebbe latte a sufficienza per nutrire non solo Roberto ma anche altri due bambini se l'avesse voluto. Siccome Rosaura era stata poco bene per alcuni giorni, nessuno si stupì che Tita si occupasse di dar da mangiare al nipotino. Ciò che non scoprirono mai fu il modo in cui lo faceva. Tita infatti, con l'aiuto di Pedro, stava molto attenta a non farsi vedere da nessuno. Il bambino quindi, anziché essere un motivo di separazione tra i due, finì per legarli ancora di più. Sembrava infatti che la madre del bambino fosse Tita e non Rosaura. Così sentiva Tita e non lo nascondeva. Con quale orgoglio il giorno del battesimo teneva in braccio il nipote e lo mostrava a tutti gli invitati. Rosaura poté essere presente soltanto in chiesa poiché non si era ancora ristabilita. Tita prese quindi il suo posto al banchetto. Il dottor Brown guardava Tita estasiato. Non poteva toglierle gli occhi di dosso. John era andato al battesimo unicamente per riuscire a parlare con Tita a quattro occhi, nonostante si vedessero tutti i giorni durante le visite che John faceva a Rosaura, non avevano avuto l'occasione di chiacchierare liberamente e senza attorno altre persone. Approfittando del fatto che Tita stava passando vicino al tavolo dove era seduto, il dottore si alzò e le si avvicinò con il pretesto di vedere il bambino. Ma come sta bene questo bambino in braccio a una zia così affascinante? Grazie, dottore. E pensare che non è suo figlio. Chissà come sarà bella quando avrà tra le braccia un figlio suo. Un velo di tristezza oscurò gli occhi di Tita. John, notandolo, disse: Mi scusi, forse ho detto qualcosa di sconveniente. No, non è questo. Il fatto è che io non posso sposarmi né avere dei figli perché devo badare a mia madre fino alla sua morte. Ma come? Questa è un'assurdità. Ma è così. Adesso mi scusi, ma devo pensare ai miei invitati. Tita si allontanò in fretta, lasciando John nel più grande sconcerto. Anche lei era turbata, ma si riprese ben presto sentendo Roberto fra le sue braccia. Che importanza aveva il suo destino, se poteva tenere accanto a sé quel bambino? Che era più suo che di nessun altro. In realtà lei occupava il posto di madre senza averne il titolo ufficiale. Pedro e Roberto le appartenevano e lei non aveva bisogno di altro dalla vita. Tita era così felice che non si accorgeva che sia sua madre sia John, anche se per ragioni diverse non la perdevano d'occhio un momento. Mamma Helen era convinta che Pedro e Tita tramassero qualcosa. Per cercare di scoprirlo non mangiò neppure ed era talmente concentrata nel lavoro di vigilanza che non si accorse della buona riuscita della festa. Tutti furono d'accordo nell'ammettere che gran parte del successo era di Tita. Il mole che aveva preparato era squisito. Riceveva continue congratulazioni per la sua abilità di cuoca e tutti volevano sapere il segreto della ricetta. Purtroppo, nel momento in cui Tita rispondeva a queste domande, dicendo che il suo segreto era di aver preparato il mole con molto amore, Pedro le era vicino e i due, per una frazione di secondo, si guardarono con complicità, ricordando il momento in cui lei era intenta a macinare sul metate. La vista di lince di mamma Elena a 20 metri di distanza registrò quella scintilla e Tita ne fu profondamente turbata. Fra tutti gli invitati era l'unica a disagio, perché dopo aver mangiato il mole, curiosamente, tutti gli invitati erano diventati euforici e si abbandonavano a manifestazioni di allegria poco comuni. Ridevano animatamente, come non avevano mai riso in vita loro e come non avrebbero più fatto per molto tempo. La rivoluzione minacciava di portare ovunque fame e morte, ma in quel momento pareva che tutti tentassero di dimenticare che nel paese si stava sparando. L'unica a rimanere impassibile fu mamma Elena, che cercava di risolvere il suo cruccio. Approfittando di un momento in cui era abbastanza vicina a Tita, così che lei non perdesse una sola parola di quanto avrebbe detto, si rivolse ad alta voce a padre Ignazio. Per come si stanno mettendo le cose, padre, sono preoccupata che un giorno mia figlia Rosaura abbia bisogno di un medico e non sia possibile farlo venire qui, come il giorno del parto. Non appena si sarà ristabilita, credo che la cosa migliore sia che si trasferisca con suo marito e con il piccolo ad abitare a San Antonio in Texas, a casa di mio cugino. Lì avrà un'assistenza medica migliore. Non sono dello stesso parere, donna Elena. Proprio per la situazione politica, lei ha bisogno di un uomo in casa che la difenda. Non ne ho mai avuto bisogno. Ce l'ho fatta da sola con la fattoria e con le mie figlie. Gli uomini, padre, non sono così importanti nella vita, ribadì. E neppure la rivoluzione è così pericolosa come la dipingono. È molto peggio non avere l'acqua a portata di mano quando si mangia il peperoncino. Beh, sì, certo, rispose padre Ignazio ridendo. Ah, donna Elena, sempre con le sue battute. Ma mi dica, ha già pensato dove potrebbe lavorare Pedro a San Antonio? Può lavorare come contabile nella ditta di mio cugino. Non avrà problemi perché parla l'inglese perfettamente. Le parole che Tita udì esplosero come palle di cannone nel suo cervello. Non poteva permettere che questo si verificasse. Non era possibile che le venisse tolto il bambino. Doveva impedirlo a tutti i costi. Intanto mamma Elena era riuscita a rovinarle la festa, la prima festa della sua vita, nella quale aveva provato gioia. Continua. Prossima ricetta, salsiccia del Nord.